chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaira. E buongiorno, quest'altra domenica fantastica. Vaira, adesso lo sveglio, aspettate un attimo. Vaira, Angelo, sei sul pezzo, sempre sul pezzissimo. Stavo sognando di cani. Eccoci, che almeno sono bei sogni quelli, vai. Allora, vi ricordo subito, prima che passi troppo tempo, noi stiamo, vi assicuro che io leggo le mail, appena posso rispondo anche, quindi qualcuno può testimoniare delle nostre risposte, e mano a mano vi mettiamo in lista per potervi coinvolgere anche durante la trasmissione, quindi abbiate fede, abbiate pazienza, e la nostra mail è chiedimi se sono felice, @radio24.it. E l'altra cosa è che se vi volete sentire le puntate che vi sono piaciute, che vi siete perse, c'è un argomento in modo particolare, andate sul sito di radio24.it e ci sono i podcast. Hai finito? Il podcast. Ah, ma allora, facciamo qui adesso, facciamo il riassunto delle nostre 11 cose che forse allora, giusto, fai. Abbiamo preso questo articolo da Focus che dice ci sono 11 cose che forse fai ma che i cani non piacciono, potrebbero non piacere. Noi abbiamo fatto un elenco di 7 punti ormai, questo è forse il settimo. Quello di oggi, no? Che poi che diciamo al cane non piacciono, ma stiamo vedendo che non piacciono neanche a noi. È che non piace, tracciamo sempre dei paralleli tra il cane che è un nostro, può essere un nostro insegnante, tante volte noi. Facciamo un piccolo riassunto, beh? Piccolo riassunto. Allora, il primo punto era usare le parole più che il linguaggio del corpo. Usare le parole più che il linguaggio del corpo, giusto. No, non piace usare le parole più... No, lo so. Sta dormendo veramente. Abbiamo voluto fare una gag, ma qui mi si è appisolato. Usare le parole più che il linguaggio del corpo è un errore, qualcosa che forse fai, ma che al cane non piace. Esattamente. Ecco, cos'altro non piace al cane? Secondo punto, non piace abbracciarlo forte, beh. Abbracciarlo forte, ok. Io però ti abbraccio forte, ti piace? Qualche volta sì e qualche volta anche, perché dallo sguardo non posso dire altrimenti. Perché non sei un cane. Ecco. Quindi i cani sono molto cos'altro? Poi il terzo punto è fargli pat pat sulla testa. Giusto, non piace ai cani, non piace a noi. Quarto punto, ma che c'hai, fretta? No, ho tante cose da dire, okay. Facciamo sempre l'elenco. Quarto punto, guardarlo fisso negli occhi. Giusto, che guardarlo fisso negli occhi è un amplificatore di emozioni. Se sei arrabbiato diventi più arrabbiato e esprimi più rabbia. Se sei innamorato più amore. Quinto punto, vivere senza regole non piace ai cani e non piace nemmeno agli umani. Non piace nemmeno agli umani, abbiamo bisogno di regole per capirci. Vanno comunicate con calma e coerenza. Sesto punto, obbligarlo a interagire con cani che non gli piacciono. Esattamente, occhio al sovraffollamento, occhio quando lo portate nell'aria cani, occhio quando adottato un nuovo cane o entra in casa un nuovo bambino. E ora il settimo punto. Il settimo punto che discuteremo oggi è signori, il settimo punto è portarlo fuori solo per far pipì. Che non va per niente bene. No, perché noi bipedi frenetici e concentrati sul lavoro tendiamo troppo spesso a portare il cane a spasso solo per permettergli di espletare i suoi bisogni. Ma sai quanta gente infatti. Dice no, perché poi il cane adesso lo devo portare fuori a fare pipì. No, non tu può lo farla. Dici sempre. Oppure che... c'è gente che non porta mai i cani fuori, gli fa fare pipì soltanto sulle traversine. E poi... Ma come odioso. Ma guarda che non c'è nessun riferimento personale. Ma vattene a prendere in saccoccia. Guarda. Tu sei in training. Okay, sì, io sono in training. In training, no, però sono è importante dirlo proprio per questo punto qui. Continua a leggere, sentiamo cosa no, dice lo qui. So anch'io che per un cane è molto importante fare la passeggiata almeno 20 minuti. Ma oggi osservo... Almeno 20 minuti. Almeno. Sono circa 2 ore al giorno di camminata. 20 minuti ogni volta che si scende, si scende almeno minimo 3 volte al giorno, meglio 4, più si sta fuori meglio è. No, ma oggi commentavamo anche di quelli che lo portano al guinzaglio e pensano i cavoli loro, quindi lo trascinano, non si accorgono che povero Cristo annusa. Hai visto lì in quella scena che abbiamo visto stamattina, fermi al semaforo, quanto se quel cane avesse avuto la pettorina sarebbe stato meglio? Esatto, volevo dire quest'altra cosa, no collari, basta, devono essere banditi, anche il collare semplice, ci vuole la pettorina. Insomma, per il cane la pettorina è più comoda, salvo rare eccezioni. Però il punto è appunto, quindi porto il cane a spasso non perché deve svuotare la vescica o fare la popò. No. Porto il cane a spasso principalmente perché ha bisogno di annusare. Lui ogni volta che mette il naso per terra è un po' come leggere il gazzettino. Certo. Capisce di là che cane è passato, che taglia era, se era maschio o se era femmina, che età aveva, come si sentiva, se era malato piuttosto che in salute. Insomma, ha un sacco di informazioni, ha bisogno di incontrare altri cani, ha bisogno di vedere posti nuovi esattamente certo, come noi. Quindi che cosa aiuta il cane poi a fare una passeggiata rilassata? Un guinzaglio lungo e una pettorina. La pettorina che gli permette di essere comodo, di abbassare la testa, di annusare per terra. Un guinzaglio lungo che ci dà aria attorno a noi, dà spazio attorno a noi, no? Se un guinzaglio lungo 3 metri da un lato hai 3 metri, dall'altro pure, insomma, hai un diametro di circa 8 metri attorno a te, se ci aggiungi anche il braccio. Quest'area qui è fondamentale per i cani per rilassarsi. Infatti, allora, per vincere la pigrizia si potrebbe per esempio introdurre qualche interessante variante al solito tracciato all'interno del quartiere, cioè invece di fare lo stesso giro anche noi possiamo attraverso la passeggiata del cane cambiare, esatto, che fa sempre bene pure a noi. Itinerario, cambiare sempre itinerario, ma non soltanto all'interno della città. Io posso prendere il cane e portarlo in un parco che non ha mai visto, in un luogo che non ha mai visto. Una volta a settimana il cane dovrebbe vedere un luogo che conosce molto poco, perché questo dà nuove informazioni, stimola cognitivamente, potrebbe incontrare nuovi cani. E poi, come dicevamo prima, evitare di andare nella solita area cani, no? Perché uno è fissato che deve andare all'area cani. Quanti cani mi chiamano i proprietari e dicono: tira il cane per andare dove? Sempre la solita area cani. Cambia itinerario, sorprendi il tuo cane, deve essere qualcosa che la passeggiata che lo metta, lo solleciti dal punto di vista cognitivo. Ma poi, come ci insegna la carica dei 101, a volte andare a fare la passeggiata col cane si può incontrare anche l'amore della propria vita, ecco, capisci? No, ma è vero, si incontra, sì, a parte gli scherzi, si incontrano persone, si condividono esperienze, parli del cane, di quell'altro cane, delle abitudini, degli usi, delle... Non soltanto il cane trova il suo innamorato, ma anche le persone, se sono single, possono... Comunque ci sono un sacco di gruppetti a Parco Sempione, per esempio, dove andiamo spesso noi, dove si prendono l'abitudine proprio di ritrovarsi, sono diventati amici, i padroni fra di loro, organizzano, sì, dei meeting, delle escursioni, delle cose. Tanta gente poi mi dice: non ho tempo. In realtà passa tempo a fare le piau, a guardare la TV, eccetera, eccetera. Oppure inchiodato di solito sui faccio social. Coaching e viene fuori un sacco di tempo. E quando le persone passano da fare le piaure a portare il cane a spasso, oltre ad essere più in salute, perché poi mi ringraziano per questo, cambiano giro, quindi conoscono altra gente ed è anche più piacevole. Bene, benissimo, e con questo abbiamo iniziato. Adesso facciamo un attimo, cioè abbiamo traffico, un attimo la nostra pausa traffico celentano. E a subito dopo. A fra poco. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Signore, qui con signori, noi. Ecco Enzino noi Nazionale. Oggi Enzo Iacchetti. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ma dai, ma sei tu che fai il cane? E certo, appena mi alzo io saluto tutti così. No, scusa, posso dire? Allora devo assolutamente raccontare questa cosa e ilare molto, sentiamo, ilare sentiamo. Che abbiamo chiamato Enzo col numero della radio che ho scoperto che appare sconosciuto. E lui non è che non risponde agli sconosciuti, perché uno non risponde e fa scattare segreteria. Lui no, ha risposto e ha detto: non rispondo agli sconosciuti. Ed eri tu, cioè sei avanti. Ma stavo mettendo giù, solo che poi ho sentito la tua voce gentile e ho detto: ma è una signora, sentiamo che dice. Vedi, ha ragione, ha ragione mio papà, che dice sempre: quando io ho vergogna di andare a chiedere gli autografi alle persone che stimo, no? E perché so che quando uno è circondato da gente ti chiede sempre l'autografo, a volte insomma è stancante, soprattutto se hai mille impegni, stress o cose. E lui mi dice: no, ricordati che sei sempre una donna, a venire a chiedere a noi ci fa sempre piacere. Vedi come la salunga, no, il Celentano per galanteria. Noi siamo galanti, hai, sì, capito? Boom, siamo galanti, interisti e galanti, quindi siamo per forza così, interisti, ma... è vero, interisti. Quindi ti piace Pazza Inter? Pazza Inter, ma guarda, io non vedevo l'ora, io ho fatto polemiche anche allo stadio, lo sai che sono un polemico. Sì, ma sei un polemico che ha delle belle idee, sei un quindi bravo polemico. Polemico, interista, comico fantastico, e amante degli animali, che è per questo che poi noi ti abbiamo chiamato, ma anche uomo fragile, anche uomo fragile. E beh, poi per amare gli animali si sa che una certa sensibilità devi avercela, no? Quindi sì, soprattutto ho un odio per gli umani, è per questo che ma quanto ti adoro, ma che quanto ti adoro, d'accordo. Ma smettetela, sono tutte d'accordo, e due, sono d'accordo, io dico che d'accordo, l'uomo si deve estinguere come i dinosauri, ma non è vero, che l'hai incontrata prima di me, mi dispiace. No, guarda, come ti condivido queste idee. Che l'uomo fa cose pessime, ma fa anche, celebra anche la vita in modo pazzesco. Per cui, tutti quelli che hanno un cane, per me già sono salvabili. Sono uomini particolari. Tutti quelli che hanno e fanno cose per le bestie, soprattutto quelle abbandonate, quelle che soffrono di più, sono persone già più particolari. E naturalmente ti colleghi molto meglio con loro, cioè ti sintonizzi molto meglio. Quindi, sì, sai che si dice sempre, a volte a me scrivono sui social e mi dicono: ma scusa, con tutti i bambini e le persone povere che stanno male, dobbiamo per forza occuparci di animali e di cani? Che è una cazzata di domanda, perché... Ma è una gran stronzata, perché nessuno di noi abbandona i bambini che stanno male, questo è un altro discorso, che c'entra? No, ma non solo, ma chi ha sensibilità per un cane o un animale sicuramente ce l'ha anche per le altre logico, persone, bambini o anziani, certo. Ma il contrario non è sempre così, cioè non è sempre certo. Scontato, capito? Già uno che ti fa sta distinzione. No, anzi, coltivare compassione, come sappiamo, no, dall'articolo di cui abbiamo parlato, significa coltivarla per una specie, ma si allarga poi anche alle altre. Per cui è molto più facile che chi si occupa bene di animali tende ad avere più compassione anche in per generale. Senti, tranne voi due, che bisogna dire. No. Ce lo siamo giocata così. Ascoltami, da dove nasce? Tu sei uno che io t'ho visto col tuo cagnolino innamorato, cioè hai una sensibilità per gli animali e per i cani, sei sempre stato molto molto attento, vero? Guarda, io li ho sempre trovati per strada e siccome molte volte mi è capitato, adesso non voglio fare una radionovela che vi fa piangere, ma siccome mi è capitato molte volte di stare da solo nella vita e di soffrire molto, quando ho visto questi, io ne ho avuti tre in pratica, hanno varcato, come diciamo noi, il ponte dell'arcobaleno e non ci sono più, però adesso c'è Lucino, che l'ho trovato il giorno in cui è morto Lucio Dalla, di cui ero molto amico, e che ha lo stesso colore della sua parrucca. Non ci credo. Siccome scherzavamo molto io e Lucio su questa cosa e ci chiamavamo Lucino nelle telefonate, è arrivato questo e mi sembrava la parrucca, sto piccolino, sto nanetto di cane, mi ha seguito con la macchina nelle Marche, in una strada bianca, mi sono fermato e è saltato sulla pancia, perché ho un po' di pancetta, che tenero. E ho visto che era la parrucca di Lucio, secondo me l'ha mandato Lucio. Ed è stata chiamato Lucino e ti giuro è il cane più comico dell'universo. Ma dai, perché? Cioè, mi fa ridere, mi fa morire da ridere. Lui e Olio Staglio sono gli unici due. Ma vabbè, ma fantastico. Gli unici mi fanno ridere, perché lui fa delle espressioni talmente buffe. Beh, dire che gli manca la parola è una stronzata, perché ce l'ha, perché tu gliela leggi negli occhi la parola, di quello che vuole dirti, di quello che vuole fare. E poi è furbo, è un po' nutria, quando lo sgridi diventa una nutria. Una nutria. Si sdraia un po' come si nasconde con gli occhi tristi. Senti, ma lui è tuo, cioè vive in simbiosi con te. Tu come vivi col cane? Cioè, lo fai dormire sul letto? Allora, lui ha un cuscino ai piedi del letto, sul letto, ma ai piedi del letto. Quando c'è sua madre, la padrona, lo vizia molto naturalmente, e lei addirittura se lo porta sotto le coperte. Quando io sono in giro, sono in tournée, quindi io non vedo. Poi cerco di dargli un'educazione, insomma, perché deve fare almeno il liceo classico. il ginnasio. Almeno poi l'università vedrà se vuole farla la fa, se non vuole farla partire. Vabbè, sì, c'ha tempo. Però io, quando arrivo io, invece dorme sul suo cuscino, perché sa che io voglio essere un po' più largo. Ma al mattino ce lo troviamo sempre, tra una testa e l'altra c'è la sua. Senti, ma che cosa ti hanno insegnato i tuoi cani fino ad oggi? Guarda, mi hanno insegnato ad ascoltare, ad essere... ad essere fortunato, devo dire. Ad essere fortunato? Sì, io già lo ero un po', perché quando nel nostro ambiente fai un po' di successo, vabbè, magari c'hai un po' di talento, però sì. È passato anche il treno giusto nel momento giusto, no? Certo. E quindi, però è interessante sta cosa che tu dici, vabbè, la fortuna però, non però ti accade. Però quando vedi un cagnolino, veramente ne vedo tanti, io li vorrei prendere tutti. Probabilmente quando smetterò di fare... sto lavoro mi compro un pezzo di terreno, spazio, un po' di terreno, e me li raccolgo e pazienza, mi ritiro in un eremo dove l'umano non rompe i maroni, esatto. Dicendo che abbaiano, che fanno, eccetera, eccetera. Vedi, la fortuna non è quella cosa che ti accade, puoi imparare ad essere fortunato. Bellissima questa cosa. Quali sono i tuoi progetti in questo momento, Enzo, se uno vuole venire ad ascoltarti? Siamo in tournée, e adesso siamo in Toscana. Stasera in Toscana. Piombino, Carrara, Carrara, e poi veniamo a Milano per la prima del 24. Voi siete ospiti. Sì, allora il 24 di febbraio c'è la prima a Milano, a teatro. Al Carcano. E come si intitola? Matti da slegare con Giobbe Covatti. Bene, fantastico. Favoloso. Veniamo a vedervi. Che ha preso poco fa proprio un cagnolino per... sai quei cani che siccome sua figlia è allergica ha preso quella razza per gli allergici, che non mi ricordo adesso come si chiama, ma è buffissimo. Il cane cinese dal ciuffo, oppure un cane nudo messicano. Infatti l'ha fatto venire dall'America, non lo so, perché la ragazza voleva un cane assolutamente, però era allergica, e con questo cagnolino, questo incrocio, ha risolto il problema, quindi anche lui è papà. Ecco, bene, allora poi bene. Magari una volta chiameremo. Andiamo a vedervi lui. E vi metto in riga tutti con gli altri. Ci vediamo il 24 di febbraio a teatro Carcano con Enzo Iacchetti. Ciao. E Giobbe Covatta. Un bacio. Io vi aspetto, mi raccomando. D'accordo. Puntuali alle 20:30 e poi tu li porti i cagnolini, puoi portarli perché Lucino viene e sta in camerino. Va bene, dai, in qualche modo ci li facciamo incontrare. Ciao, grazie Enzo Iacchetti. Ciao Enzo, grazie, un bacione. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Sì, no, ho trovato un articolo fantastico. Ma va? Sì, favoloso, che voglio che tu sappia. So favoloso? Che... Sì. Ma non abbastanza. Oh madonna. Senti, io so che tu questa cosa, fra l'altro, provare compassione può farci vivere più a lungo. Questo è un articolo di lifegate.it, che è un sito io che a me piace molto. Amo sta roba, cioè tu mi conosci da quanto, esatto. Da quanto lo dico io. Esatto, quindi per quello io ti sto dicendo, ti volevo leggere alcuni punti perché mi sono innamorata di questo articolo, lo trovo veritiero, e da quando ti conosco ho messo anche in pratica alcune cose. Sentiamo, sono curioso. Allora, perché dice che sono diversi studi che hanno dimostrato praticamente come sia un essere umano o animale può migliorare la nostra salute, cioè provare compassione. No, perché di solito uno per compassione immagina quella roba pietistica, triste, sì, una roba dove tu devi per forza fare quello che soffre per gli altri. Sì, è una forma di pietà esercitata dall'alto verso il basso, in poche parole. E invece non è questo compassione. Allora io voglio dire, ci sono queste due o tre parole, no? Empatia, simpatia, compassione. Empatia è empatia, cioè provare dentro la sofferenza dell'altro. Se tu la provi dentro, non necessariamente però è il modo di aiutarlo, questo esiste anche tra gli animali. Se tu pensi per esempio a, che so, le macchine di tortura del Medioevo, lì il torturatore è molto empatico perché prova, sa che cosa sta facendo l'altro, cioè vuole, però non ha desiderio di aiutarlo. Vabbè, quindi ma sei un contorto, cioè... Questo succede anche a noi perché dobbiamo sapere anche questo è funzionale. Okay. Se tu invece hai un moto dentro che desidera alleviare la sofferenza dell'altro, questa è compassione. L'articolo dice che provare appunto tale sentimento fa bene sia psicologicamente che fisicamente, perché addirittura provare compassione può accelerare il decorso di una malattia, aumentare il benessere psicofisico e ridurre i livelli di stress e i sintomi depressivi. Questi sono studi fatti da una certa Sarah Conrath dell'University of Michigan e da Stefania Brown della Stony Brook University, perché hanno mostrato come uno stile di vita compassionevole potrebbe anche aumentare la durata della nostra vita. Addirittura. Sì. Vedi quanto è importante. Quindi occuparsi dell'altro. Cioè, ma poi quando noi parliamo di cani, il mondo dalla prospettiva del cane che cos'è? Cioè devo riuscire a capire come si sente il cane, quali sono i suoi bisogni, per occuparmene meglio. Ecco perché noi diciamo che la relazione con un cane ben impostata è una palestra, è un campo di esercizio per diventare esseri umani migliori. Esseri umani migliori, poi ci dice la scienza, non è soltanto per il fatto che tu in questo modo aiuti gli altri o sei di beneficio agli altri, cosa grandissima, ma addirittura fai bene alla tua stessa salute. A te stesso. Sì, ma difatti noi abbiamo analizzato un sacco di casi di cani che vanno negli hospice ad accompagnare i malati terminali, sì. Contro il bullismo, hanno fatto vedere che far entrare dei cani in alcune aule, adesso non mi ricordo in che parte Italia, hanno visto che riescono a sconfiggere molto prima il bullismo. Ci sono miliardi di cose. La pet therapy è fondata tutto su questo, no? La presenza, la relazione con l'animale, ecco, non l'animale in sé, perché quanta gente adotta il cane, lo lascia in giardino, non esatto. Ha un rapporto con lui, non è che gli migliori poi così oppure tanto lo prendono come giocattolo per i figli. La relazione con l'animale più è ben impostata, meglio ti fa. Però giustamente c'è una da specificare una cosa, che non è sufficiente compiere buone azioni, devono essere dettate da un giusto motivo. Perché lo studio appunto di questa Sara Conrad ha rivelato che le persone attive nel volontariato godono di una salute migliore dei loro coetanei che invece non dedicano tempo ai bisognosi. Fantastico. Cioè, ecco, però attenzione a distinguere le cose. Cioè, non soltanto tu devi fare volontariato, dipende dalla motivazione che hai. Certo. Cioè, se la motivazione è lo devi fare perché te l'hanno imposto, perché ti toccano, non ti fa così bene. Ovviamente. Se invece la motivazione è compassionevole, cioè tu desideri davvero il bene dell'altro, la felicità dell'altro, ecco che questo ti fa bene. Ma addirittura questi studiosi hanno rivelato elevati livelli di infiammazione cellulare nei soggetti la cui felicità deriva da uno stile di vita edonistico, cioè di benessere. Questo è un punto Oscar Wilde della situazione, importantissimo. No, cioè dice, la nostra illusione, esatto, è che se tu fai le cose che ti danno piacere, quindi ti dedichi soltanto a quello che ti piace, no? Uscire con gli amici, farti due risate, farti il bagno caldo e pensi soltanto a queste cose, quindi l'unica cosa che conta è provare a piacere, benessere veloce, sì. Questo in realtà causa infiammazione cellulare, cioè non è buono, mentre invece se tu ti occupi della felicità degli altri, questo ti fa vivere più a lungo e meglio. Esatto. Beh, da questa scoperta deriva l'ipotesi appunto secondo la quale una condotta compassionevole migliorerebbe la salute e aumenterebbe la durata della vita. Sì. Come però si fa? Perché il punto è questo: come faccio a coltivare compassione? Perché uno dice, ecco, o ce l'ho o non ce l'ho. No. Perché c'è chi nasce che ha distinto più compassionevole, per chi si occupa di istinto, sente proprio il dolore degli altri. Non è soltanto istinto, perché la compassione che un adulto può provare può derivare sia da esperienze, quindi da quello che ha fatto nella vita, sia da una base istintuale, no? Genetica, anche da un'educazione, no? Che ti rende più sensibile, più attento cose. Ai bisogni degli altri. Il punto è, dobbiamo evitare di pensare che se noi non proviamo in questo momento tutta la compassione per fare volontariato, andare a fare volontariato per i canini, per esempio, non è così. Esatto. Perché il cervello è plastico, cioè noi la compassione la possiamo coltivare così che ci venga da dentro, sorga da dentro la motivazione ad alleviare le sofferenze degli altri. E può essere verso gli fa? Altri esseri umani, verso gli animali. Beh, una delle cose che dice questo articolo è la meditazione, che sappiamo abbiamo un argomento che a volte abbiamo anche affrontato. Tu fai da 20 anni che io ho imparato a fare, faccio un po' di scontinua, diciamo. No, parliamo per esperienza diretta. La meditazione fa bene, cioè, poi ci sono oltre 30 anni di ricerca fatti al MIT negli Stati Uniti, ma adesso anche in diversi istituti di ricerca nel mondo, che ci dicono che la meditazione fa benissimo. È una delle cose più, delle tecniche psicologiche più studiate oggi. E il benessere spirituale. Il benessere spirituale significa che se tu prendi una religione seriamente, non come quella melmetta cattolica che dicono, c'è in Italia, io credo, ma credo a modo mio, e no, quindi non fanno, sì, non oppure mi sposo in chiesa, ma in realtà non me ne frega nulla, niente, cioè lo voleva lei o lo voleva, ecco, lui non è quello. Cioè significa, vuoi essere cristiano? Sì, lo fino in fondo, va a capire che cosa sono veramente gli insegnamenti di Cristo, invece di star lì soltanto a sperare di fare la confessione prima di morire, no? Però l'articolo dice che se queste cose per voi possono apparire un po' troppo mistiche, quindi non le sentite nel profondo del cuore, può bastare in realtà sentirsi parte della natura e avvertire la connessione con tutte le specie, non solo la propria. E qui entra in campo animalness, cioè se volete maggiori informazioni proprio su questo punto, cioè come la vita in mezzo alla natura, gli animali possano farci stare meglio, andate sul mio sito angelovaira.it, la prima volta forse che faccio pubblicità al mio sito oggi, c'è una sezione che si chiama... Ma ne vale la pena. Se c'è una sezione che si chiama animalness, riguarda proprio il fatto che l'essere umano possa evolvere recuperando la propria animalità, che non significa tornare indietro, come dicono i filosofi oggi, significa invece guadagnare maggiore integrità per il fatto che riscopriamo appunto il fatto che noi siamo esseri animali. Ma guarda che io ho letto anche libri, uno dei quali dedicava, se non ricordo male, non vorrei confondermi, che è Donne che corrono coi lupi. C'era una parte dove diceva che oggi per voler pianificare tutto, il consumismo ti obbliga ti obbliga intanto a una corsa frenetica, quindi a non rispettare più i ritmi naturali, ma anche il fatto di voler sapere tutto, come si dice, in modo razionale: se faccio questo passo mi porta tot, se faccio questo non mi porta niente. Quindi se non ci siamo dimenticati che abbiamo anche noi l'istinto, esattamente istintuale, come gli animali, e tendenzialmente l'istinto è quello che ci dovrebbe indicare e sempre la strada di giusta. Quello che si pensa, l'istinto ha una è connaturato da una forte spiritualità. Ecco, appunto, vedi? Ora, quindi la cosa che noi possiamo fare, ecco, Donne che corrono coi lupi è un libro che io consiglio per recuperare appunto la propria animalità, la compassione, la spiritualità in un modo molto viscerale, molto molto bello. Ci sono altri metodi. La nostra stessa trasmissione, che chiedimi se sono felice, cioè, perché te lo devo chiedere? Perché mi interessa il tuo punto di vista. Certo. È basato su un principio di compassione. Think Dog, la mia scuola, è pensa come pensa un cane, mettiti nei suoi panni, e tutti i metodi che ne derivano è un modo per sviluppare compassione. Ma non solo, ma guarda che noi a volte usiamo parole di uso stracorrente e non sappiamo più qual è il vero significato. Dire ti voglio bene vuol dire voglio il tuo bene prima del mio, solo che tutti lo dicono, voglio ma il tuo bene, non necessariamente prima del mio, però se non altro io sono interessato alla tua felicità, con tutto quello che questo comporta. È ovvio, quindi sai, è proprio un insomma, si sono perse queste cose che abbiamo sotto gli occhi di tutti e tutti i giorni. A proposito poi delle pratiche spirituali, io ricordo che il buddismo, in particolare quella corrente buddista che si chiama Mahayana, grande veicolo, ha tutto, è proprio, come si dice, quello che lo contraddistingue è proprio l'elemento della compassione. Ha tutta una serie di metodi atti a sviluppare compassione. Testi scritti da lama molto importanti, esercizi spirituali, pratiche meditative, tutte come si dice, create e praticate per sviluppare la compassione, perché è un principio indispensabile per conseguire all'interno del buddismo l'illuminazione. C'era anche Anthony De Mello, però Anthony De Mello non era un buddista, sebbene era appunto un monaco cristiano, un prete cristiano, ma fortemente contaminato dalla cultura buddista, vivendo poi però faceva tanta meditazione, cioè mindfulness, no, di modi ce ne sono tanti. Io vorrei riportare anche un po' l'attenzione all'educazione, cioè alle famiglie, alla mamma e il papà che ti dicono, io mi ricordo quando ero piccola che mi dicevano no, non giocare a tagliare la coda alle lucertole, le poverine, perché stanno male, perché soffrono e provano dolore. Quindi voglio dire, c'era anche un'educazione in questo senso, di avere attenzione per qualunque altro essere vivente, capito? Assolutamente. Beh, l'altra cosa che invece possiamo imparare dagli animali è che nel mondo degli animali, chi si occupa di etologia cognitiva oggi ce lo può confermare, c'è tanto altruismo, c'è tanta compassione. Infatti. Cioè il meccanismo per cui io sento quello che tu provi e desidero alleviare la tua sofferenza non è prettamente umana. Questa è un'altra cosa che noi possiamo approfondire. Assolutamente no. Cioè gli animali tra di loro sono fortemente compassionevoli. E noi no? Tendono a proteggere, noi forse addirittura invece avremo da imparare da molti infatti animali. Quindi ci sono delle radici biologiche della nostra compassione. Noi siamo animali naturalmente altruisti. Secondo alcuni etologi, oggi la cooperazione più della competizione è alla base della sopravvivenza delle specie, cioè aiutarsi l'un l'altro, cooperare ed allearsi. Bene, questa cosa è fantastica, questo articolo ci è piaciuto molto, un argomento che troviamo utilissimo, interessantissimo, che può veramente farci vivere. Da dove l'hai preso? Dove l'hai preso? L'ho detto, da lifegate.it, che è un sito che io adoro, infatti mi piace moltissimo. Allora mi raccomando, provate a mettere in pratica quello che noi vi raccontiamo e che scopriamo in prima persona, perché non si sa mai che magari uno si ritrova a vivere delle giornate migliori. Scriveteci a chiedimi se sono felice @radio24.it, andate anche a riascoltare i nostri podcast, scriveteci anche commenti. No, sul sito di Radio 24 si può fare, così che possiamo chiacchierare un po' anche di questi argomenti. A fra poco. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presento. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Eccoci, allora ancora in linea. Io abbiamo una nostra fedele ascoltatrice, caro Vaira, sì, che ci ha scritto una mail perché ci segue e ha un cagnolino che adesso, se non ricordo male, ha compiuto 3 anni. Si chiama Room. Siamo in linea con Ilaria, ci sei? Ciao, sì, ciao Ilaria. Allora, Room c'ha 3 anni, giusto? Esatto, quasi 3. Ci spieghi al volo che problematiche c'ha, che tu chiedevi? Cioè, quindi Ilaria ci ha mandato una mail a Radio 24 dicendo: ho problemi con il mio cane, mi date qualche consiglio? Sì, ecco, aiutatemi, sarò proprio scritto. Ecco, infatti, aiutatemi. Aiuto! Aiutatemi! No, Rum è un cane buonissimo e bravissimo, se non fosse che ha paura, una paura fortissima di tutti gli altri cani, siano maschi, femmine, cuccioli, adulti e anche delle persone. Quindi io abito in campagna, lo lascio spesso libero e ultimamente lo lascio libero solo se sono super sicura di non incontrare nessuno, perché appena passano delle persone o degli altri cani, lui si dimentica di qualsiasi cosa stesse facendo e si avventa contro la persona o il abbaiando. Cane, abbaiando, non fa nulla, non però morde. Non morde l'ultima volta, ed è stato l'episodio che mi ha spinto a scrivervi, ha acciuffato una ciocca di pelo dalla schiena di un cagnolino al guinzaglio, quindi diciamo che lo ha morsicato, ha provato a morsicarlo. Quindi lui è libero quando fai queste cose qua, siete in campagna o comunque in luoghi, no? E lei dice, io aiutatemi perché sono anche un po' stanca di litigare, oltre che mi dispiace per lui, perché ovviamente sicuramente non è felice. Di che razza è Rum? Lui è un setter Gordon, è un cane da caccia che non usiamo mai per andare a caccia, anche perché è l'istinto, non so dove se lo sia dimenticato, però gli piace molto correre, gli piace tanto e quindi io lo lascio volentieri libero, cioè nei campi, insomma. E questo comportamento da quanto tempo lo manifesta? Ma in realtà da sempre, cioè da quando l'ho preso, però io l'ho preso che lui aveva già 8 mesi. Okay. E quindi io non so in questi primi mesi cosa sia. Era un canile? Cosa... No. Era da un signore che lo aveva preso, poi lo ha dato alla figlia. Non andava d'accordo con insomma se lo sono un po' passati l'uno con l'altro, vedi. Alla fine è arrivato a me. Allora ne approfittiamo per dire che i cani sono delle persone, noi ci dicono gli etologi cognitivi, cioè hanno una personalità, sono dotati di personalità e la personalità si modifica nel tempo. Allora l'esperienza che fa il cane soprattutto nei primi mesi di vita sono importanti per la formazione del suo carattere, questo lo dico non soltanto per Ilaria, no, te, ma anche per chiunque ci stia ascoltando. Quindi per esempio i cani dei cacciatori soliti che vengono tenuti nei serragli poco a contatto con il mondo tendono a sviluppare problemi comportamentali dopo, spesso legati alle paure, e infatti loro la prima cosa che fanno è vediamo come reagisce allo sparo, quando il cane non va bene lo danno via oppure lo sparano direttamente oppure a volte purtroppo no. Allora, allora cominciamo col dire, io quello che ti sto dicendo va completato da un professionista che ti segua, no? Certo. È importante per diversi motivi, ma soprattutto per l'efficacia, perché magari bastasse qualche consiglio detto a voce. Però fondamentalmente per un cane che ha questo sottofondo di paure, da quello che ho capito, bisogna espandere i momenti e le attività che lo divertono. Questo è il primo punto. Quindi bisogna bisogna identificare nell'arco della giornata, esplorare anche con l'attività che noi non conosciamo ancora, bisogna identificare quali sono i momenti in cui il cane sta bene, si diverte, felice, sicuro di sé, no? Accanto a questi gli si va a far vivere queste esperienze sempre di più e a limitare invece quelle in cui ha paura, che però dovrà vivere, ma gradualmente, ed è questa la bravura di un professionista, che ti sa scegliere qual è l'equilibrio giusto, perché se gli fai vivere troppe esperienze che lo mettono a disagio, rinforzerà i circuiti neurali legati a disagio, paure, via dicendo. Se invece lo tieni troppo a fare soltanto le solite cose che lui piacciono, non modificherà il suo comportamento quando invece ce n'è bisogno. E questa è la prima parte. La seconda è legata alla socializzazione, cioè il fatto che lui possa pian piano accettare, familiarizzare, poi addirittura costruire delle relazioni con delle persone strane o con dei cani che non ha ancora visto, accettandole anche nel suo territorio. Sì. Quindi la reazione che lui ha di avventarsi è perché emotivamente non riesce a gestire questa cosa qua, quella roba gli sembra una minaccia e lui cerca di cacciarla via da quell'area lì. E invece dobbiamo metterlo in una condizione mentale per cui lui emotivamente stia bene, presentargli ad hoc un altro cane, un'altra persona che facciano le cose giuste in modo che cominci a familiarizzare viste da lontano, così che lui possa dire, beh, non è poi male. Oppure si utilizzano altre tecniche, può come per un esempio... Può essere un po' come il video, quello che avevi fatto con Duke, il boxer che abbaiava... Duke non soffriva di aggressività legata così tanto alla paura. Quindi la procedura probabilmente sarà diversa. Ci sono sono le classi di socializzazione, che sono state una cosa proprio nata in Think Dog, sì, che possono aiutare molto, o dei lavori da fare al guinzaglio, oppure far fare a Room e a delle persone estranee qualcosa che Room conosce molto bene, che lo diverte, perché questa attività fa da ponte per presentargli nuove persone. Okay. E insomma, in tutto questo ci vuole quella sensibilità, quella capacità di lettura del cane che solo un educatore cinofilo o un istruttore in riabilitazione cognitivo-comportamentale può avere. Va su thinkdog.it, che c'è una mappa, oppure insomma chiedi a, non so, al tuo veterinario di fiducia o da chi ti fidi, a chi puoi rivolgerti per risolvere questo problema accanto ai miei consigli. O comunque Lara, ci rimandi una mail e ci fai sapere, aggiornaci sui progressi e mano a mano che fai, che se appena possiamo ti diamo grazie dei mille Ilaria. Certo, vi aggiornerò. Grazie, fa delle mille coccole a Room da parte nostra. Esatto, certo, tantissimo. Grazie Ilaria, buona giornata. Ciao. Eh sì, perché non è facile a volte, sai, bastasse solamente dare un consiglio alla radio per risolvere dei problemi, invece sono un pochino lenti, però si possono raggiungere dei risultati meravigliosi e perfetti. Ora abbiamo il telefono Francesca Mugnai, responsabile di Pet Therapy all'ospedale pediatrico Meyer. Salve, pronto? Buongiorno. Ciao, buongiorno. Salve. Ho detto bene Meyer? Ho detto benissimo, sì. Benissimo. Così. Allora, sì. Ci spieghi un po', no, di questo... c'è un progetto in corso, no? Lì all'ospedale. Sì, questo progetto di interventi assistiti è presente dal 2002, quindi insomma sono tantissimi anni che il Meyer si avvale di questa forma di terapia speciale. Cosa? Ed è un progetto... Sì. Ti stavo per fare no, la stessa domanda. No, siamo curiosissimi, quindi appena comincia a parlare già partiamo con le domande. Senti, ce lo racconti un pochino? Allora, entrare al Meyer è un po' particolare, perché in realtà è un ospedale in cui esistono delle cose fatte proprio a misura di bambino, per cui ci sono le attività con gli animali sono presenti 3 volte la settimana, quindi è proprio un'attività che sì, tantissimo, e fa parte proprio del protocollo di accoglienza. Beh, e oltre ai cani ci sono anche altre attività come musicisti, i clown. I cani sono speciali, lo sentivo dire prima a te Angelo, sono speciali perché fanno cose speciali e sono speciali perché riescono a intuire situazioni particolari, situazioni anche emotive molto complicate come quelle dei bambini che vivono una malattia. La bellezza di questo progetto è che il cane entra dentro l'ospedale come entra qualsiasi altra persona, quindi non ha un accesso particolare. Vedi. Sì. Poi arriva direttamente nei reparti, in tutti i reparti. Questo. Guarda, come prima tu ci stavi raccontando. Facciamo la mano per chi deve parlare. Prego, prima. Prego, prima le donne. Scusami, no, ti volevo dire, ma da quanto tempo riuscite a far entrare i cani a lavorare con loro in un ospedale? Dal 2002. 14 anni. Adesso festeggiamo a giugno i 14 anni dentro il Meyer. E perché non se ne parla mai? Io l'altro giorno con Angelo dicevamo queste notizie bisognerebbe darle al TG. Ma veramente? Cioè ai telegiornali bisognerebbe dare queste cacchio di notizie, porco Giuda, invece che le solite ritrite negative. Perché ci sono anche tante persone, tante situazioni positive che fanno bene all'anima. Non si può solamente sentire cose che ti fanno cascare le braccia. Ma oltretutto, sai quando si dice è con l'esempio che cambia le cose, non con la tua opinione, no? Quindi queste sono dei bemolle. Ma quindi, allora, prima ci stavi parlando della peculiarità del cane, perché hai parlato di altri progetti, no? Quindi la musica, clown. Il cane, secondo te, che peculiarità, il cane o gli altri animali, che peculiarità ha con i bambini? Che cosa che riesce a fare? Il cane è capace di entrare in maniera sintonica in rapporto con la persona che ha davanti. Non solo con il bambino, ma anche con il sistema, bambino-famiglia. Per cui il cane dà veramente delle letture molto precise, emotivamente definite, e restituisce anche una situazione, cioè il clima di una situazione emotiva, il cane lo riesce bene a restituire. E su questo noi creiamo poi un intervento, che è un intervento che ha un carattere riabilitativo, perché proprio i benefici di questa attività sono legati alla riduzione del dolore emotivo, alla riduzione dello stress. E il cane è proprio anche un attivatore di un sostegno psicomotivo che è fondamentale per questi bambini. Io sto parlando di bambini, voi immaginatevi bambini di tutti i tipi, con tutti i tipi di malattie anche gravi. Puoi farci per favore un esempio di questo tipo di malattie? Per esempio, una cosa che funziona moltissimo e che poi, ed è questa la parte scientifica anche importante, viene registrata in cartella clinica e quindi si parla proprio di un processo di cura clinico, è quando gli infermieri oppure i medici ci chiamano per permettere ad alcuni bambini che hanno subito degli interventi di neurochirurgia importanti, quindi per esempio alla testa, ci chiamano per aiutare il bambino a rimotivarsi al movimento. Certo. Per cui entriamo nella stanza insieme all'infermiere e chiediamo al bambino se vuol camminare, se se la sente di far fare una passeggiata a Budino. Ah, allora, questo Budino. Aspetto di, per esempio Budino, sì, questo aspetto di spostamento dalla paura di riniziare a camminare, perché comunque riniziare a camminare dopo un intervento grosso è dolore, è paura di non farcela, paura di cadere, paura del genitore, no? Allora, l'animale diventa proprio un soggetto di spostamento della paura. Un motivo valido per cui affrontare tutto. Esattamente. No, bellissimo. Sì, fantastico, guarda, meraviglioso. Budino, che cagnolino è? Budino è un piccolo meticcio di 9 anni, che insomma è un piccolo angioletto, un santo che riesce a aiutare i bambini. Quando è insieme ai bambini è un angioletto, quando è in fattoria con i suoi amici e cavalli. Un diavoletto. Bravissimi. Però, no, bella questa cosa, quindi poi lui vive in una fattoria, no? Con altri animali, sì. Vedi? Questo è un buon modo di far pet therapy, perché spesso io ho avuto un confronto con colleghi, no? Che prendono il cane, lo tengono lì tutto il giorno. Però, magari esagerano, no? Con questa attività di pet therapy, invece devi dare spazio al cane perché possa ricrearsi, no? Sai la ricreazione che facevamo a scuola? Anche i cani ne hanno bisogno. Senti, benissimo, ma come si può fare per sensibilizzare la gente, altre persone, altri ospedali di tutta Italia, dell'Europa e del mondo, perché capiscano e adottino questi metodi? Allora, è importante fare ricerca, è importante dimostrare che la relazione con il cane è un benessere per l'anima ed è la cosa più importante. Dati alla mano. Dati alla mano, ricerca, indagine su certi parametri, quindi parametri fisiologici come la pressione sanguigna, la pressione arteriosa e anche parametri comportamentali, bambini che si alzano con il cane e non si alzano con altre cose, sorrisi, tutto quello che comunque è capacità di indagine è fondamentale in questa materia, che sono è d'accordo. Molto bella, ma va indagata. Senti Francesca, guarda, grazie della tua testimonianza fantastica. Vuoi lanciare un appello? C'è qualcosa di particolare che vuoi dire a proposito di questi progetti? Beh, posso dire che questi progetti è importante che abbiano dei finanziamenti pubblici o comunque, come noi abbiamo la fortuna di avere questo importante finanziamento che ci sostiene da tanti anni della Fondazione Maier, ed è importante che le strutture sanitarie capiscano che il cane può essere veramente, o meglio la relazione con il cane, un qualcosa che aiuta le persone non soltanto tecnicamente, ma li solleva anche a livello emotivo. Quindi è fondamentale finanziare questi tipi di progetti. Senti, per finanziare c'è un sito, un indirizzo dove uno, se vuole aiutarvi, può dare qualcosa? Sì, il sito del Maier, www.maier.it. A Fondazione Maier è possibile sostenere questa attività anche attraverso un SMS 45508. Benissimo. Grazie Francesca. Grazie, brava, Francesca Mugnai. Avete tutta la nostra stima. Grazie a tutti gli operatori di Pet Therapy, questi geni. E ci vediamo alla prossima. Chiedimi se sono felice. @radio24.it. Ciao da Angelo Vaira e Rosita Celentano. Buona domenica.